certa distanza. Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. Fridolin era avvolto nelle tenebre. Più in alto, a una certa distanza, là dove doveva attenderlo la sua carrozza, si vedeva una luce rosso cupo di una lanterna. Dal fondo della strada avanzò la carrozza funebre, quasi l'avesse chiamata. Un servitore aprì la portiera. «Ho la mia carrozza!» disse Fridolin. Il servitore scrollò la testa. «Se è andata via, ritornerò in città a piedi!» Il servitore rispose con un gesto della mano così poco servile da escludere ogni opposizione. Il cilindro del cocchiere si ergeva ridicolmente alto nella notte. Il vento soffiava forte. Nel cielo volavano nuvole violette. Dopo le precedenti esperienze, Fridolin non poteva illudersi di avere altra scelta se non salire su quella carrozza, che si mise subito in moto. Si sentiva deciso a far luce, a suo rischio, su quell'avventura non appena fosse possibile. Gli sembrava che la vita non avesse più alcun senso se non gli riusciva di ritrovare la misteriosa donna che in quel momento stava pagando il prezzo della sua salvezza. E di che prezzo si trattasse era fin troppo facile immaginarselo. Ma che ragione aveva di sacrificarsi per lui? Sacrificarsi? Ma era poi una donna per la quale ciò che la minacciava, ciò che stava ora subendo, poteva significare un sacrificio. Se partecipava a quei convegni, e non era certo oggi la prima volta, poiché conosceva così bene le consuetudini della casa, che poteva importarle di sottostare alle voglie di uno o di tutti quei cavalieri? Sì, poteva mai essere altro che una prostituta. Potevano tutte quelle donne essere qualcos'altro. Prostitute. Non c'era dubbio. Anche se accanto a quella che era appunto una vita da prostitute ne conducevano un'altra, per così dire, borghese. E tutto ciò che aveva appena vissuto non era forse un infame scherzo che si erano permessi con lui? Uno scherzo già previsto, preparato, forse addirittura studiato perché si fosse introdotto là senza invito. Eppure, se ripensava a quella donna che lo aveva messo in guardia sin dal primo momento e ora era pronta a pagare per lui, nella voce, nel portamento, nella regale nobiltà del suo corpo nudo, c'era qualcosa che non poteva assolutamente essere falso. O era bastata forse solo l'improvvisa apparizione di lui, di Fridolin, a operare in lei il miracolo di una trasformazione? Dopo tutte le avventure di quella notte, ritenne possibile, era sicuro di non peccare di vanità, anche un miracolo simile. Forse ci sono ore, notti, pensò, in cui, anche da uomini che in circostanze normali non hanno alcun particolare ascendente sull'altro sesso, si sprigiona un tale fascino strano e irresistibile. La carrozza continuava a risalire il colle. Normalmente avrebbe dovuto già da tempo voltare nella strada principale. Che intenzioni avevano nei suoi confronti? Dove doveva condurlo la carrozza? La commedia doveva forse avere ancora un seguito. Di che genere? Era prevista forse una chiarificazione? Il lieto ritrovarsi in un altro posto? Il premio dopo il brillante superamento della prova? L'ammissione nella società segreta? Il possesso indisturbato della splendida monaca? I finestrini erano chiusi. Fridolin cercò di guardar fuori. Erano opachi. Voleva aprirli. Provò a destra, a sinistra. Impossibile. Opaca e chiusa era anche la lastra di vetro che lo divideva dalla cassetta. Picchiò sui vetri, chiamò, gridò. La carrozza continuava la sua corsa. Tentò di aprire le portiere a destra e a sinistra. Non cedettero a nessuna pressione. I suoi ripetuti richiami si smorzarono nel cigolio delle ruote, nel sibilare del vento. La carrozza cominciò a sobbalzare. Procedeva in discesa, sempre più veloce. Fridolin, in preda ad agitazione e angoscia, stava per fracassare uno dei finestrini opachi quando la vettura si fermò all'improvviso. Le due portiere si aprirono contemporaneamente come mosse da un meccanismo, quasi ad offrire beffardamente a Fridolin la scelta fra destra e sinistra. Smontò. Le portiere si chiusero. E senza che il cocchiere si curasse affatto di lui, la carrozza si allontanò nella notte per l'aperta campagna. Il cielo era coperto. Le nuvole correvano veloci, il vento soffiava. Fridolin si trovava sulla neve che diffondeva tutto intorno un pallido chiarore. Era solo. La pelliccia aperta sulla tonaca da monaco, il cappello da pellegrino in testa, e non si sentiva proprio a suo agio. Poco distante correva un'ampia strada. Una processione di lampioni dalle luci incerte e oscillanti segnava la direzione della città. Fridolin si avviò e, per potersi ritrovare il più presto possibile fra la gente, accorciò il cammino attraverso la campagna coperta di neve e leggermente in declino. Coi piedi completamente bagnati giunse in una stradina stretta e semibuia. Camminò dapprima fra alti steccati che scricchiolavano al vento. Dopo il primo angolo si trovò in una strada un po' più larga, dove si alternavano rade casette e carrieri di buoi. Dall'orologio di un campanile rintoccarono le 3 del mattino. Qualcuno gli veniva incontro. Un tipo in giacca corta, le mani nelle tasche dei pantaloni, la testa incassata fra le spalle e il cappello calcato sugli occhi. Fridolin si tenne pronto a rintuzzare un'eventuale aggressione, ma inaspettatamente il vagabondo fece dietro front e scappò. «Che significa questo?» si chiese Fridolin. Poi pensò che doveva avere un aspetto abbastanza sinistro. Si tolse il cappello da pellegrino, si abbottonò il cappotto sotto cui ciondolava fin sopra le caviglie l'abito da monaco. Voltò di nuovo. Si trovava in una strada periferica. Un uomo in abito campagnolo gli passò accanto e lo salutò come si saluta un prete. Il raggio di luce di un lampione cadeva sull'insegna stradale della casa all'angolo. Lieberstall. Dunque non molto lontano dalla casa che aveva lasciato nemmeno un'ora prima. Per un secondo fu allettato all'idea di tornare indietro e attendere nei pressi della villa lo sviluppo degli avvenimenti, ma desistette subito, considerando che si sarebbe esposto a un grave pericolo, senza tuttavia avvicinarsi di più alla soluzione dell'enigma. Il pensiero di quello che doveva svolgersi in quel momento nella villa lo riempì di rabbia, disperazione, vergogna e paura. Quello stato d'animo era così insopportabile che quasi gli dispiacque di non essere stato aggredito dal vagabondo incontrato poco prima e di non giacere presso uno steccato nella stradina sperduta con un coltello conficcato fra le costole. Così quell'assurda notte, con le sue avventure insulse e incompiute, avrebbe almeno avuto alla fine una specie di significato. Ritornare a casa, come stava per fare, gli sembrò addirittura ridicolo. Ma non era ancora tutto perduto. C'era tempo anche domani. Giurò di non darsi pace prima di aver ritrovato la bella donna, la cui nudità abbagliante lo aveva inebriato. E solo allora pensò ad Albertine. Ma come se fosse anche lei una donna da conquistare. Quasi che Albertina non potesse o non dovesse essere di nuovo sua prima che egli l'avesse tradita con tutte le altre di quella notte, con la donna nuda, con la Pierrette, con Marianne, con la prostituta del vicolo. E non doveva anche preoccuparsi di ritrovare quell'insolente studente che lo aveva urtato passando a sfidarlo a duello, alla sciabola, meglio ancora alla pistola. Che gli importava della vita di un altro o della propria? Bisognava metterla in gioco soltanto per dovere, per spirito di sacrificio, mai per capriccio, per passione o semplicemente per misurarsi col destino. E si ricordò di nuovo che probabilmente portava già in sé il germe di una malattia mortale. Non sarebbe troppo stupido morire perché un bambino affetto da difterite ti ha tossito in faccia? Forse era già malato. Non aveva la febbre? In quel momento non era forse a letto? A casa? E tutto ciò che credeva di aver vissuto quella notte non era altro che un delirio? Fridolin aprì quanto più possibile gli occhi. Si toccò la fronte e le guance, si tastò il polso. Appena accelerato. Tutto normale. Era completamente sveglio. Continuò per quella strada in direzione della città. Dietro di lui venivano alcuni carretti diretti al mercato. Gli passarono accanto con fracasso. Di quando in quando incontrava gente vestita poveramente, per la quale la giornata cominciava a quell'ora. Dietro la finestra di un caffè, a un tavolo sul quale oscillava la fiamma di un lume a gas, stava seduto un uomo grasso, una sciarpa attorno al collo, la testa appoggiata sulle mani, e dormiva. Le case erano ancora immerse nel buio. Poche finestre isolate erano illuminate. Fridolin credette di sentire come gli uomini a poco si svegliassero. Gli sembrava quasi di vederli stirarsi nei letti e prepararsi ad affrontare la loro povera, dura giornata. Anche egli stava per iniziare la sua, che non era però misera e triste. Con uno strano batticuore si rese conto con gioia che fra poche ore sarebbe passato in camice bianco fra i letti dei suoi malati. All'angolo era fermo un fiacre. Il cocchiere dormiva a cassetta. Fridolin lo svegliò, gli diede il suo indirizzo e montò. Erano le 4 del mattino quando salì le scale di casa. Andò prima allo studio. Ripose accuratamente il costume in un armadio e, poiché voleva evitare che Albertine si destasse, si tolse le scarpe e i vestiti prima di entrare in camera da letto. Accese senza far rumore la fioca lampada sul suo comodino. Albertine dormiva immobile, le braccia incrociate dietro la nuca, le labbra semiaperte, segnate da ombre di dolore. Era un volto a lui sconosciuto. Si chinò sulla sua fronte, che subito si aggrottò, come se l'avesse toccata. I suoi tratti si deformarono, stranamente, e all'improvviso, sempre nel sonno, scoppiò in una risata così stridula che Fridolin si spaventò. Istintivamente la chiamò per nome. Come per risposta, ella rise di nuovo in un modo del tutto strano, quasi sinistro. Fridolin la chiamò ancora una volta, e più forte. Ora Albertine aprì gli occhi, lentamente, a fatica, e lo guardò fisso, come se non lo riconoscesse. «Albertine!» Egli chiamò la terza volta. Solo allora lei sembrò tornare in sé. Il suo sguardo esprimeva difesa, paura e addirittura terrore. Levò le braccia in alto, senza senso, e come disperata la bocca rimase aperta. «Che ti succede?» chiese Fridolin con fiato sospeso. E poiché lei continuava a fissarlo, terrorizzata, aggiunse come per calmarla: «Albertine, sono io!» Albertine respirò profondamente. Tentò di sorridere, lasciò ricadere le braccia sulla coperta e, come trasognata, chiese: «È già giorno.» «Fra poco», rispose Fridolin. «Sono le 4 passate. Sono rientrato in questo momento.» Lei taceva. Egli continuò: «Il consigliere è morto. Era già in agonia quando sono arrivato e, naturalmente, non potevo lasciare subito soli i familiari.» E l'annuì. Ma sembrò averlo appena ascoltato o capito. Fissava il vuoto, come attraverso di lui. Ed egli ebbe l'impressione, per quanto insensata potesse anche sembrargli subito quell'idea che Albertine dovesse essere a conoscenza di tutte le sue avventure notturne. Si chinò su di lei, le sfiorò la fronte e la rabbrividì leggermente. «Che hai?» egli chiese di nuovo. Albertine scosse solo piano la testa. Fridolin le passò la mano sui capelli. «Albertine, che ti succede?» «Ho sognato», ella disse con distacco. «Che cosa?» chiese lui dolcemente. «Tante cose. Non riesco bene a ricordarmene. Forse ci riuscirai. Era tutto così confuso. E ho sonno. Anche tu devi aver sonno, no?» «Niente affatto, Albertine. Probabilmente non dovevo dirlo. Sai che quando rientro così tardi, la cosa più razionale sarebbe che mi mettessi subito a tavolino. Proprio in queste ore mattutine.» Si interruppe. «Ma non vuoi raccontarmi piuttosto il tuo sogno?» E sorrise un po' forzatamente. Ella rispose: «Tuttavia dovresti almeno distenderti un pochino.» Fridolin esitò un attimo, poi fece come lei desiderava e si sdraiò al suo fianco, ma si guardò bene dal toccarla. «Una spada ci divide», pensò, ricordandosi di aver fatto una volta in un'occasione simile la stessa osservazione semischerzosa. Tacevano. Stavano sdraiati con gli occhi aperti, sentendo la reciproca vicinanza-lontananza. Dopo un certo tempo, egli appoggiò la testa sul braccio, la osservò a lungo, come se riuscisse a vedere oltre le semplici fattezze esteriori del viso. Ad alta voce, Marco Foschi ha letto Doppio sogno di Arthur Schnitzler. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it